giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallin in studio e di Daici in regia, il nostro spazio di ascolto, riascolto di alcune conferenze, eventi e convegni che si sono svolti nel periodo recente, in questo anno pastorale, nel territorio della Diocesi di Padova. Continuiamo il percorso proposto dall'Associazione Ex Alunni dell'Antoniano in Prato della Valle a Padova. Il ciclo di conferenze è dedicato al tema della medicina, arte, scienza e pratica etica. Dopo gli interventi del Ragioniere Generale dello Stato Daniele Franco sui costi della salute, del professor Carlo Casalone sull'etica del nascere e del morire, del professor Nanni Costa sui trapianti d'organo, siamo ora all'ascolto della conferenza della dottoressa Maria Teresa Russo, professore associato di filosofia morale e bioetica all'Università di Roma III e docente di antropologia all'Università Campus Biomedico di Roma. La dottoressa Russo dirige la rivista Metodologia Didattica e Innovazione Clinica, che si propone come spazio di dialogo tra scienze umane, tecnica e scienze mediche. Il titolo del suo intervento, svoltosi il 20 febbraio scorso all'Aula Morgagni del Policlinico Universitario, La salute perfetta, promessa o utopia? Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Toccheremo questo tema della salute, considerando anche, certo io lo farò da filosofo, che questo termine utopia effettivamente può essere utilizzato o in senso positivo o in senso negativo. Cos'è l'utopia? Già questo ci porterebbe molto lontano, no? Utopia in questo caso lo utilizzeremo come, forse come mito, come ideale, forse ideale irraggiungibile, no? E da filosofo, anche se si dice che i filosofi a volte complicano le cose, effettivamente bisogna intenderci e su questo tema, così la ricchezza semantica del termine salute si nota anche dalle definizioni, no? Cioè c'è un saggio del filosofo Gadamer che si è interessato molto al tema della medicina, di fatto negli ultimi anni, e aveva anche, evidentemente faceva parte anche di quel giro con Medard Boss, psichiatra, a cui avrebbe partecipato anche Heidegger, su questi temi della salute, della malattia, della cosiddetta antropologia medica tedesca, che rifletteva proprio sull'uomo malato. E Gadamer, certo, parla di primato, sicuramente di primato ontologico della salute, ma di antiprimato metodologico, perché di fatto è difficile definire la salute. È difficile definire perché forse è troppo ricco come contenuto, ma allo stesso tempo è troppo sfuggente, e quasi evidentemente rischiamo di definirla a partire dalla malattia, tanto che, come vedete, ci sono varie definizioni. La naturalezza dell'essere in vita, la naturalezza dell'essere in vita, dice Gadamer. Una delle più famose definizioni è del chirurgo Lerisch: la salute è la vita nel silenzio degli organi, che molti medici però hanno discusso, perché hanno affermato che il silenzio degli organi non sempre evidentemente è sinonimo di salute, no? Ma c'è anche qualche poeta, filosofo, Paul Valéry, che si è cimentato con queste definizioni, trattando proprio del tema lo stato in cui le funzioni necessarie si svolgono insensibilmente o con piacere. Eppure tutte queste definizioni hanno forse in comune sia il tema del qualcosa che passa inosservato, e qualcuno l'ha paragonata alla felicità. La salute è come la felicità, è un po' banale forse, quando non te ne accorgi vuol dire che ce l'hai, cioè effettivamente, e tra l'altro sì, diciamo, tutte queste definizioni hanno anche in comune questa sorta di passare inosservato del corpo. Il corpo passa sotto silenzio nello stato di salute, o perlomeno è trasparente. c'è anche evidentemente questo tema della normatività, da un lato non ho citato altre, per non appesantire, altre definizioni come quella di Bors, no? Cioè la salute ha due aspetti che sono la normalità e la normatività, ma uno pecca troppo di quantitativo e uno pecca troppo di qualitativo, no? Cioè, che significa essere in salute? Che significa essere in salute? Tanto che è tanto difficile definirla che non ci accontentiamo di dire essere in salute, ma ci aggiungiamo essere in buona salute. Aggiungiamo l'aggettivo buono che è qualitativo, non basta essere in salute. C'è poi un detto italiano che non so se esista in altre lingue, non ho fatto questa indagine, per cui addirittura c'è un paradosso, che è quello di scoppiare di salute, che è evidentemente un'espressione abbastanza paradossale, no? Sappiamo, e qui ci sono tante persone presenti che su questo diciamo hanno maggiore competenza di me, ma sappiamo che effettivamente la nostra cultura, come si diceva prima, è salutocentrica. Per noi è importante il tema della salute e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avuto questo merito di effettivamente favorire il superamento della nozione semplicemente biomedica di salute, per cui sano è chi non è malato, non è soltanto questo, no? E appena formatasi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato questa definizione di salute, che però è apparsa subito quanto mai, possiamo dire, quanto mai, diciamo, complessa, ma anche con problematica. Questo stato di completo benessere, effettivamente, questa definizione della salute come stato di completo benessere fisico, mentale, sociale, non solo assenza di malattia, ha avuto il merito di superare il semplice modello biomedico della malattia, di aver allargato il tema della salute, scusatemi, all'orizzonte biopsicosociale, ma allo stesso tempo di aver dilatato enormemente il concetto di salute. Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Se qui interrogassi qualcuno di voi, no, naturalmente non lo farò, chi possiede qui presente questo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, effettivamente, evidentemente questo ha dilatato i confini della salute con una ricaduta sulla medicina. Tanto che, come ben sappiamo, successivamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sfumato questa definizione, in gran parte possiamo dire corretta, parlando non tanto di stato ma di equilibrio dinamico. Un equilibrio dinamico, la salute richiede anche degli aggiustamenti, e lo stare in buona salute del diciottenne non è senz'altro lo stare in buona salute dell'anziano, così come evidentemente lo stare in buona salute richiede effettivamente, non è un possesso stabile. Perché questo poi lo diremo, certo la salute si caratterizza come bene fragile, un bene fragile. E d'altra parte Sant'Agostino, nel definire una delle definizioni di uomo che darà, è l'uomo nascere, l'uomo è colui che quando nasce comincia ad ammalarsi. E il che evidentemente non è tanto confortante dal punto di vista delle prospettive, però in questo senso Sant'Agostino voleva sottolineare proprio la fragilità di questo bene, un bene fragile. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso atto anche che quello slogan lanciato ad Almaty nel 76-78, salute per tutti nell'anno 2000, e ha preso atto che questa sorta di, diciamo, sì, possiamo dire di auspicio, ma forse aveva qualcosa di utopistico. Salute per tutti nell'anno 2000, siamo nel 2017, non è stato di fatto raggiunto. E tanto che la stessa direttrice generale dell'OMS, no, la Margaret Chan, è una cinese, nel 2011 alla conferenza sui determinanti di salute di Rio de Janeiro ha dato un annuncio abbastanza, possiamo dire, sorprendente, no? Cioè che quello slogan salute per tutti nell'anno 2000 non soltanto non era stato, diciamo, realizzato, ma che addirittura le malattie, tutto sommato, evidentemente continuavano ad aumentare, no? Cioè, soprattutto ha parlato delle malattie non trasmissibili, soprattutto dei paesi più ricchi, che effettivamente continuano ad avere una incidenza enorme, no? Tanto che la Chan poi in questo discorso pronunciato nel 2011 a Rio diceva addirittura che effettivamente è questa, che la globalizzazione non era stata una marea che aveva sollevato tutte le barche. Sta parlando del tema della salute, no? Quindi la globalizzazione auspicata, soprattutto in termini di salute, non è stata una marea che ha sollevato tutte le barche, ma solo quelle più grandi, mentre ha fatto colare a picco quelle piccole. Per cui lei concludeva: le differenze all'interno e tra paesi in termini di livelli di reddito, di opportunità, di stato di salute, di accesso alle cure, effettivamente oggi sono maggiori che in qualsiasi altro momento della storia recente. È singolare questa sorta di dichiarazione che risale adesso a sei anni fa, era il 2011, dove la Chan concludeva: ci sono oggi più, diciamo, più differenze, più discrepanze in termini di reddito e di stato di salute tra i paesi di quanti ce ne fossero in passato. Questo evidentemente comporta anche che quando parliamo di salute effettivamente è un discorso che va calibrato: salute per chi, salute per quale paese, salute se pensiamo che in alcuni paesi come l'Etiopia l'aspettativa di vita è 42,5 anni, effettivamente ci possiamo chiedere che significa parlare di salute in alcuni di questi paesi, no? Ecco, vi dicevo quindi la deriva di queste effettivamente possiamo dire la concezione di salute si è andata sempre più possiamo dire arricchendo di criteri, non più quegli oggettivi, possiamo dire quelli che ricadono all'interno del paradigma della normalità, ma quelli soggettivi e quelli socioculturali, no? Effettivamente, dove pesano tanti aspetti come la vita relazionale, non soltanto il poter lavorare, ma il poter svolgere i propri compiti, le proprie relazioni. E d'altra parte è anche vero che pesano molto nel tema della salute, adesso lo vedremo, quelli che sono anche le esigenze degli ambienti sociali, professionali, no? Effettivamente potremmo anche dire che ci sono, se ne parlava anche prima, c'è un tale pressing in alcuni ambienti professionali che, parafrasando una canzone, bisogna avere un fisico bestiale, cioè nel senso di occorrerebbe di fatto, il tema della salute è un tema già evidentemente molto molto, molto soggettivo, molto relativo proprio a quello che mi viene richiesto. Cosa viene richiesto, no? E noi possiamo anche pensare, e qui vedete, a quello che è stato un po' la deriva della concezione di salute così dilatata. Cioè, una cosa è l'aggettivo salutare, una cosa è salutista, Cioè, ci sono molte pubblicazioni sia sul tema del salutismo sia sul tema della medicalizzazione, no? Cioè, perché? Perché effettivamente si tratta evidentemente di una, diciamo, di richiedere sia alla medicina effettivamente prestazioni, ma anche che alla fin fine però aumentano il potere della malattia sull'uomo, no? Cioè, e qualcuno ha parlato, c'è questo saggio di Roberto Volpi, che è uno statistico che insegna a Pisa, no? Si chiama L'amara medicina, in cui effettivamente Roberto Volpi polemizza, forse in qualche caso un po' con toni eccessivi, contro soprattutto contro la medicina preventiva, ma soprattutto mette il dito nella piaga dicendo, affermando che la nostra cultura così medicalizzata effettivamente rischia di essere iatrogena, cioè effettivamente di produrre, con un'ansia anticipatrice, produrre effettivamente questo aumento del potere della malattia sull'uomo. E, pensiamo per esempio anche, e lui dice umoristicamente, la medicina rischia oggi, parlando naturalmente dell'eccesso di screening, eccetera, dice invece di farci morire di malattia ci farà morire di paura, no? Cioè di paura della malattia, no? E del resto vi ricorderete quella opera teatrale così simpatica e gustosa di Jules Romain, il dottor Knock. Dottor Knock che arriva, no? Molto spesso gli studenti di medicina lo mettono in scena, se c'è un corso di teatro nelle scuole di medicina si ama mettere in scena il dottor Knock, mi ricordo una famosa interpretazione con Alberto Lionello, ma in cui questo medico condotto arriva in un paese sostituendo quello andato in pensione, dove effettivamente gli dicono che avrà pochissimo da lavorare in quel paese perché sono tutti sani. Sono tutti sani e quindi non ci sarà lavoro per lui. E quasi lo compiangono, ma il dottor Knock sa il fatto suo e poco a poco, inducendo sospetti, dubbi, con domande ad hoc, riesce effettivamente a trasformare il paese di sani in paese di malati, o forse di presunti malati, no? Che bussano al suo ambulatorio effettivamente con grande ansia, no? Ed è e infatti il sottotitolo è Il dottor Knock o il potere della medicina, no? Beh, sappiamo poi dopo vedremo, perché di fatto a questo tema della medicalizzazione in realtà si associa anche un fenomeno contrario, che è quello della demedicalizzazione. È paradossale, ma si possono associare, cioè effettivamente c'è questo che Bauman, il sociologo appena scomparso, diceva: la nostra cultura è schizofrenica, cioè è come ha un movimento pendolare, passa da un opposto all'altro. E veramente prima di Bauman c'era effettivamente uno scrittore italiano che, parlando del XX secolo, parlando del Novecento, ma si può applicare anche a noi, diceva: è l'unico secolo di cui si può dire tutto il contrario di tutto, pacifista e guerrafondaio, ricco e povero, malato e sano, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente noi abbiamo questo movimento pendolare tra una affidare alla medicina fette sempre più ampie della nostra vita e allo stesso tempo sottrarre alla medicina, e quindi leggiamo anche sui giornali, no? La medicina che fa troppo, poco, o la medicina che fa troppo. Cioè il punto è la medicina oltranzista che si spinge oltre e la medicina che invece dovrebbe fare di più. Ma non è stato, e questo diciamo che un po' l'eco l'abbiamo anche nelle conversazioni dove effettivamente quotidiane, dove si dice: ma è stato fatto tutto il possibile, la medicina ha fatto tutto il possibile, oppure il contrario, e quindi a volte anche la pretesa di errori medici, oppure il contrario, la medicina che non fa di tutto per far vivere, e dall'altro lato la medicina che non mi lascia morire. Questo è molto attuale, no? Cioè, è questo o quest'altro, cosa chiedo, no? Naturalmente l'equilibrio sta nel mezzo e di fatto, e però ci sono a volte tutte e due, il movimento è pendolare, tanto che qualche anno fa venne sui giornali quella notizia roboante che poi si è rivelata falsa, totalmente falsa, in cui si leggeva che ogni giorno in Italia per errori medici morivano, non so, una trentina di persone, una cosa del genere. Notizia che poi è rimbalzata su vari quotidiani e che ha contribuito a una sorta di ventata antimedica, no? Perché poi l'antimedicina, l'antipsichiatria, diciamo, l'abbiamo sempre avuta, e che poi si è rivelata, un giornalista ha avuto poi, si è preso la briga di andare a vedere da quale fonte fosse nata questa notizia e si è rivelata del tutto falsa, no? Del tutto falsa. Allora, abbiamo quindi questa sorta di, diciamo, quindi questo movimento pendolare, medicalizzazione, no? Tanto che c'è stato un articolo, già vedete risale a 15 anni fa, del British Medical Journal, dove addirittura l'editoriale era un poco, il titolo era proprio alla ricerca delle non malattie, era stato chiesto a un campione di persone di definire quello che comunemente, ecco, quello che comunemente effettivamente si stava rischiando di definire malattia e non lo era, e di fare un elenco, no? E le persone avevano indicato in questo elenco delle non malattie appunto queste: sovrappeso, calvizie, capelli bianchi, occhiaie, bruttezza, cellulite, no? E che erano evidentemente che sono fette della nostra vita che sempre di più in un certo senso si rischia di affidare alla medicina. Del resto a volte basta entrare in certe farmacie, beh, forse più le parafarmacie, per vedere effettivamente che il grosso dei prodotti in vendita effettivamente riguarda molte di queste non malattie, a volte, no? Perlomeno quelli più in esposizione, no? E qui anche noi possiamo dire che tutto questo, vedete, alimenta questo mito della perfezione. Prima dicevamo cos'è la salute perfetta, questo mito della perfezione dove evidentemente c'è una promessa che ignora, però in realtà ignora questa, e il tema, e poi vedremo, più si dilata lo spazio della salute, meno c'è accoglienza per il fenomeno malattia, per l'evento malattia, no? Perché evidentemente la sorpresa, possiamo dire, è più grande, no? Qui abbiamo Luc Montagnier, che figuriamoci è un luminare, però a volte a questi luminari poi si affidano operazioni un po' di marketing, no? E la sua ricetta, lo riportavano anche i giornali, la sua ricetta per vivere 120 anni, no? Jogging, papaya, succo di melograno. È significativo per il che significa che se dopo aver fatto jogging tutti i giorni, bevuto succo di melograno e mangiato papaya, se poi mi ammalo, ecco il tema della sorpresa, no? A chi attribuire tutto ciò, se la salute è quasi un prodotto, è quasi una conquista, no? È significativo però, perché i giornali riportano soltanto questo, che in realtà Montagnier affiancava a questi, possiamo dire, regime, affiancava un altro paio di aspetti interessanti, che erano effettivamente il controllo dello stress e anche, diceva per esempio, anche l'armonia con se stessi, per cui affiancava anche aspetti che sono tra la psicologia e potremmo dire quasi le virtù, con un termine che prendiamo in prestito dall'etica, no? Perché il controllo di se stessi ricade più che altro nella tradizionale virtù della temperanza, e anche l'armonia con se stessi richiederebbe quello che diceva Platone, perché di fatto poi per Platone la salute è dell'intero, non ci può essere, secondo Socrate, Platone, salute solo del corpo, no? Cioè già si parlava di questa, non la chiama certo unità psicosomatica, però di fatto, no? Ma anche molte, del resto molte, anche le stesse fiction, gli stessi hanno contribuito a questa epopea della medicina, che vedete anche come questa squadra, come posizionata, no? Naturalmente il livello è gerarchico, ma anche con assertività, con atteggiamento effettivamente di conquista, e anche sempre giocato su casi estremi, ecco. E Iare, tutti, diciamo, e anche gli stessi antieroi, anche lo stesso dottor House che non porta il camice, che è gli stesso malato. Beh, questo è interessante, che sia malato, no? Perché è un po' evidentemente una sorta di, voi sapete, il fondatore della medicina, qui me lo insegnate voi, a Esculapio, che aveva insegnato la medicina a Esculapio, gliel'aveva insegnata un centauro, Chirone, Chirone mezzo uomo e mezzo cavallo, aveva insegnato la medicina ad Esculapio. Ed è interessante che fosse mezzo uomo e mezzo cavallo, perché aveva dell'uomo la razionalità e del cavallo la sensibilità. E qui c'è anatomia comparata, no? E naturalmente dobbiamo sempre, in un senso mitico, no? E poi si chiamava Chirone, che ha la stessa radice di Kerkeros, che è mano. Era il centauro dalla buona mano, la manualità del medico, no? E che significa anche possibilità di utilizzare strumenti, ma anche il tocco, no? Il famoso tocco, no? Ma c'è una particolarità, che Chirone nel lottare contro Ercole aveva ricevuto una ferita, e questa ferita era inguaribile. Quindi è significativo che all'origine della medicina venga posto un essere che era ferito a sua volta, no? È stato un po' l'emblema del guaritore ferito, e che evidentemente poi sappiamo Zeus avrà pietà di lui, no? Perché questa ferita non si rimarginava. Ma per dire cosa? Per dire che c'è una, parlavamo prima di salute come bene fragile, ma alla fragilità della salute corrisponde la fragilità poi della cura, del patto di cura perlomeno, no? Il filosofo Ricoeur ne parla ampiamente, no? La fragilità del patto di cura. E fragilità che richiede da una parte fiducia, e che quindi evidentemente non può lasciare esposto il medico a essere o guaritore, ma anzi dovrebbe essere, in un certo senso qualcuno dice, un esegeta, cioè un interprete. Qui volevo mettere, interrompo con questo, vediamo se ci viene bene, per farvi capire come però invece questa, come posso dire, questa idea di così eroica di medicina, e così anche questa domanda di salute così dilatata, alla fin fine poi, quindi la salute come conquista, la medicina trasforma da un lato il paziente, qualcuno dice, in cliente o in esigente, o addirittura informato diffidente. Perché il dottor Webb, per esempio, lo chiamano, no? A 4 milioni di pazienti, no? Cioè la salute su internet, effettivamente. Ed è singolare anche questa immagine un po' alla carte del medico. L'avrete vista tutti questa pubblicità, vediamo se ci viene bene questo. Dottori! Carissimo, sono subito da te. E lui è un luminare, nel suo campo è bravissimo, sempre disponibile. Lo conosce da tempo? No, è la prima volta che lo vedo. Con dottori.it è come se li conoscessi da sempre. Hai i migliori specialisti a portata di mano, le opinioni dei pazienti, e tu puoi prenotare la visita in un clic. Scegli i migliori su dottori.it. Dottori! Ecco, a parte l'effusione nei confronti del dottore, ma quello che è singolare di questa pubblicità, senza voler poi, per carità, il medico alla carte, no? Clicco come TripAdvisor nei ristoranti, no? Cioè effettivamente ci sarà, può essere anche una forma, possiamo dire, non voglio demonizzare, però evidente può darsi anche che questo avere anche i pareri, no, di 5, però è comunque una trasformazione. Questo poi di fatto a volte c'erano delle indagini del Censis che presentavano anche il disagio del medico di fronte effettivamente a questa maggiore pretesa, possiamo dire, del paziente, no? Ecco, quando noi parliamo, c'è qualcuno che addirittura parlando di salutismo parla di religione della salute, no? E c'è questo famoso saggio di Manfred Lutz, no? Che dice ci sono la salute, la religione della salute ha i suoi templi, le palestre, i suoi sacerdoti, personal training, i luoghi di pellegrinaggio, i centri termali e le beauty farm, le sue campagne missionarie, quelle contro il fumo, i suoi comandamenti, la dieta vegana, i suoi peccati, e magari non fare sport oppure una dieta ricca di trigliceridi, e potremmo dire anche che ha anche i suoi scomunicati, che sono effettivamente i non sani, no? I malati, ecco il punto, no? Dove vi ricorderete di quel film che è Gattaca, interessante, non è tanto sciocco, vi ricordate, dove c'è una società del futuro dove tutti nascono per fecondazione in vitro, quindi sono accuratamente selezionati e sono tutti validi, cioè sani, ma sfugge sempre qualcosa, perché il protagonista è nato in modo selvaggio, ecco, quindi è rovesciata la cosa, no? Cioè è nato, diciamo, naturalmente, e ha un difetto cardiaco. E avendo un difetto cardiaco, di per sé, se lo scoprissero, sarebbe tra gli scartati, le vite scartate. E in realtà il protagonista riuscirà invece non solo a emergere in questa società, no? Che è una società di perfetti, ma assolutamente, evidentemente, assolutamente inquietante, no? Dove alla nascita appunto si prevede tutto il futuro della persona, no? Quindi poi ci sono tanti altri film che hanno un po' continuato, no? Su questo aspetto. C'è anche, vedete, c'è anche questo slittamento, ne parla anche Bauman. Noi stiamo parlando di salute, però Bauman dice attenzione che poi il concetto, lui dice, forse nostro, postmoderno di salute, sta slittando sempre di più verso la fitness. Dice, ma la salute ha perlomeno dei criteri oggettivi, la fitness, cioè l'essere in forma, è sfuggente, non si è mai sufficientemente in forma. E quindi si insegue la fitness con uno sforzo sovrumano, no? Perché la forma si può sempre perdere, no? Questo evidentemente è un po' il paradosso, no? di questa salute come prodotto per tutti, ma poi prodotto per nessuno. Sul tema, vedete che sul tema anche mi sembra importante della medicalizzazione, non trascurerei anche il rischio di trasferire sui farmaci, sui presidi medici, aspetti che invece riguarderebbero stili di vita. Penso quando tempo fa si parlava, poi non so se l'hanno brevettato o meno, di una pastiglia che riduceva gli effetti della sbornia. Per cui se uno aveva un po' alzato il gomito e poi doveva mettersi alla guida, ecco questa pastiglia, ecco il tema della riduzione del danno attraverso la farmacologia, qualcuno ne parla anche per la tossicodipendenza, le droghe, no? Cioè la riduzione del danno però non cura alla radice il problema, no? Ecco, Il rischio, qui anche il rischio, si parlava prima di questi medici, il rischio della medicina poi di rispondere a questa enorme, non so, so che avete avuto un incontro sull'allocazione delle risorse, eccetera. Sennett, che è un sociologo in questo testo, L'uomo artigiano, tratta proprio del paradosso di una medicina che voglia applicare il modello fordista, taylorista, no? Cioè, per cui effettivamente è basato proprio su, potremmo dire, sul cosiddetto minutaggio. Recentemente una rivista, il New England Journal of Medicine, raccontava di una donna che si era appuntata delle domande da porre al medico durante una visita, ma fu subito bloccata. Il protocollo non prevedeva le domande, non c'era tempo per i quesiti personali. Se la signora voleva, poteva prenotare una visita apposita, no? Come se fosse la visita per le domande, no? Cioè, è un po' un paradosso e forse qui non avverrà, però è anche una delle conseguenze indesiderate effettivamente di un paradigma efficientista che a volte si può diffondere, no? Allora, vi dicevo, la salute come bene fragile, ma anche la salute, non sappiamo quali risorse abbiamo per fronteggiare la mancanza di salute. Rimarrà sempre un mistero. Qui parliamo più che altro di handicap, ma evidentemente, però, e queste due figure che sono state abbastanza sorprendenti, no? Alex Zanardi e la campionessa di scherma Bebe Vio, 19 anni, no? Arti amputati a causa di una meningite, no? Per cui effettivamente. Eppure campionessa di scherma, Zanardi per un incidente automobilistico, che lezione di effettivamente possiamo dire di capacità di reagire e di far fronte, no? E di far fronte a che cosa? Alla mancanza. Eppure rimane misterioso, no? quanto questo è possibile. Sicuramente non è un far fronte in solitudine. Qui anche dobbiamo anche dire il tema della relazione, del contesto, no? Evidentemente è fondamentale, no? Ecco, c'è un discorso interessante che è proprio il fatto che proprio la domanda di salute, unita però alla fragilità dei legami, comporta che cosa? Una maggiore solitudine nel momento della malattia. Io a volte mi sono chiesta, e ne parlavo anche con qualcuno, come mai ci sono tanti, penso che c'è un genere letterario nuovo oggi, non vi siete mai chiesti perché ci sono, io le chiamo le pato-autobiografie, vi racconto la mia malattia, è raro che qualcuno racconti la sua salute, non è attraente. Abbiamo dalla coscienza di Zeno in poi, quello che si racconta è la malattia. E perché allora si racconta la malattia? Da un lato perché la malattia ha una ricchezza esperienziale, mentre la salute passa sotto silenzio, ma c'è quest'altro aspetto oggi. Perché tanta esigenza di raccontare? Ieri sera, ma non l'ho visto, c'era un documentario sull'ospedale pediatrico Bambin Gesù, in cui alcuni ragazzi raccontavano la loro esperienza di malattia, forse perché c'è stata troppa fiction, e come a dire torniamo un attimo a quello che è reale, no? Ecco, potrebbe essere che abbiamo bisogno proprio del racconto per elaborare quell'esperienza della malattia, per anche possiamo dire farla propria, perché bisogna appropriarsene, bisogna interpretarla. L'uomo e gli animali si ammalano, ma l'essere umano non soltanto è soggetto a malattie, è anche soggetto di malattie, nel senso che la interpreta, se ne appropria, la rifiuta, la malattia diventa un'esperienza biografica, e forse il racconto aiuta perché comunque la malattia risulta una rottura, no? Possiamo dire. E risulta una rottura, come dice Gina Lagorio, questo bellissimo pato autobiografia, scrittrice Gina Lagorio, eccellente. Il libro si intitola Capita, non Capita, Capita, Capita. E l'incipit è interessantissimo ed è sul suo ictus e il suo successivo ripresa dall'ictus, no? Capita. E l'evento inatteso non è dipeso da me, capita. Questo incipit è un capolavoro dal punto di vista letterario, ma anche dal punto di vista della, possiamo dire, della esperienza raccontata. Capita nella pausa vita, pausa trattino vita imposta dalla malattia, che si ripensi il proprio vissuto nella temperie suggerita dalla stessa pausa. Capita così che nell'affresco certi tratti bui vengano schiariti, momenti di luce impallidiscono, qualche tessera del puzzle che non voleva saperne di andare a posto si trovi perfettamente incasellata nell'insieme. Forse è questa la sacralità del dolore. Interessante. E Léon Blois ci dice, in francese è più suggestivo, ma dice che il cuore ha degli angoli che ancora non conosciamo, in cui il dolore entra perché inizino ad esistere. Molto particolare, no? Questa idea del non effettivamente, diciamo, della sorpresa. E quindi allora non solo è perdita di qualcosa la malattia, perdita della salute, questo è un altro famoso saggio di Susan Sontag, aveva combattuto per anni contro il cancro, e vincendo questa battaglia, poi è morta per altre, diciamo, per altre malattie, ed è questa famosa immagine dei cittadini di due città e abbiamo i due passaporti di cui servirci, dove però la Sontag considera la malattia come pura perdita. Come vedete, come il buco nero, no? In cui viene risucchiato tutto. E come a dire, noi vorremmo stare solo in quella nella città dei sani e siamo costretti. C'è questa sorta di negatività che poi si rivela poi nel corso di questo saggio, che è stato molto noto, no? A me piace sempre associare alla Sontag allora un'altra scrittrice ugualmente americana, che è la Flannery O'Connor, molto originale, anche lei esperienza di malattia, un lupus che poi la farà morire molto giovane per le conseguenze di questo lupus, dove però ecco il carattere rivelativo della malattia. La malattia mi ha rivelato qualcosa, ha addirittura un valore pedagogico, potremmo dire con un termine filosofico euristico, mi ha aperto qualcosa. È una scrittrice nota, quindi lei dice addirittura, associa la malattia e il successo come entrambi rivelatori, perché lei dice anche quando, a volte noi potremmo, perché sono due eventi che mettono un po' a nudo la persona, due eventi. Guardate, anche se per questo anche la frustrazione, ma è appunto da una parte la malattia, dall'altro il successo, no? Non sono mai stata altrove che malata, la malattia come luogo. E poi dopo, da brava americana, dice, l'ho trovata più istruttiva di un viaggio in Europa, no? Perché era l'emblema un po' della cultura, no? E addirittura lei credente dirà, la malattia prima della morte effettivamente arriva a dire cosa quanto mai opportuna, e chi non ci passa si perde una benedizione del Signore, che non significa dolorismo, se uno legge le sue lettere non è così. Evidentemente è il prendere atto della fragilità, no? Ecco, pensiamo che questa immagine, che ha, devo dire, è abbastanza impressionante, è stato un evento che ha fatto abbastanza scalpore, perché la malattia reclama veramente, lo dirà anche Giovanni Paolo II, il mondo dei sani in un certo senso invita all'autosufficienza, e invece Il mondo dei malati invita alla compassione, alla prossimità, alla vicinanza. Questo è l'incontro tra un certo Vinicio, io so solo il nome, non mi ricordo il cognome, che era andato con l'Unitalsi in piazza San Pietro, malato di una forma, qui me lo direte voi, fibro... E viene viene abbracciato dal Papa e commenterà che gli è sembrato di essere in paradiso perché era stato rifiutato da tutti per la sua malattia, anche dai genitori, e nessuno lo aveva mai abbracciato, no? È un po'... sono queste malattie che fanno soprannominare The Elephant Man, no? C'è quel film di David Lynch molto, molto impressionante, no? Quindi, la componente relazionale della malattia, anche la salute è un bene relazionale, eh? E qui, e questo adesso concludo, qui abbiamo... È molto singolare associare il quadro di Munch, la morte nella stanza della malata, dove ognuno è un'isola. Si vede, sì, sì. Nessuno guarda l'altro. Vabbè, Munch poi è la solitudine. E invece quel quadro che non si riconosce l'autore perché successivamente ha fatto dipinti molto diversi, che è Picasso, dove abbiamo... Innanzitutto un medico che tocca, che è molto, la prossimità anche fisica, no? E poi abbiamo la carità, no? Cioè evidentemente questa... i tre medici di Ubaldo Oppi, un pittore che mi piace molto, dove c'è anche comunque la relazione, la collegialità, il lavoro di equipe, no? Ma il raffronto tra Munch e Picasso... nonostante quella fosse una casa benestante, questa una casa più o meno povera, tuttavia il tema della prossimità è molto evidente, no? Clericetti in una vignetta semplifica molto bene questa sorpresa che ci viene dall'evento malattia, che viene un po' a turbare. Allora, salute perfetta, concludiamo? È una promessa? È possibile? Potremmo definirla un concetto limite, al cui ci si può approssimare, che è un compito sicuramente della medicina, evidentemente, mentre invece quello che è effettivamente a portata di tutti ed è auspicabile è questa salute relativa o salute possibile, no? Dove anche lì la medicina può assicurare effettivamente che si possa realizzare col minimo fastidio, il minimo danno, i progetti vitali, no? E, c'è una possibilità, e in questo senso è possibile una pedagogia della salute, e questo anche interessante, no? Esiste la pedagogia medica, ma non la pedagogia della salute, cioè che sicuramente da un lato invita a stili di vita salutari, e questo è interessante anche per le giovani generazioni, non salutisti ma salutari. Dall'altro invita però anche a una riflessione sul tema della libertà, nel senso che la libertà presto tardi non consiste solo nello scegliere, ma presto tardi si scontra con ciò che non si sceglie, il limite, l'evento, anche qui, no? E anche possiamo dire allora, e sapendo che la libertà ha sempre a che fare col progetto di vita, si può parlare della salute come condizione per, no? Come qualcosa, una condizione per svolgere un progetto di vita, ma non è effettivamente Richard Siebeck, sempre un esponente della medicina antropologica tedesca, giustamente notava che il concetto di salute non è completo se non ci si chiede: ma salute per che cosa? Vogliamo essere sani in vista di un progetto, no? E termino allora con una frase dalle Lettere di Don Gnocchi, no? Molti si preoccupano di stare bene, assai più che di vivere bene, per questo finiscono anche per stare molto male, no? Cerca e di fare tanto bene nella vita e finirai anche per stare tanto bene. Naturalmente sono usati questi avverbi in sensi diversi, no? Possiamo dire. E quindi effettivamente questo ci richiama allora forse anche a quel concetto platonico dell'intero, no? La salute come bene dell'intero. E grazie. I giorni della Chiesa. Grazie alla dottoressa Maria Teresa Russo, intervenuta sul tema La salute perfetta, promessa utopia, nel corso del ciclo di incontri promossi dall'Associazione Ex Alunni dell'Antonianum, che ha sede in Prato della Valle a Padova. Le conferenze si sono svolte all'Aula Morgagni del Policlinico Universitario sul tema La medicina, arte, scienza e pratica etica. Ringraziamo anche Telechiara che ci ha concesso l'utilizzo della registrazione audio di quella serata. Il ciclo proposto dagli ex alunni dell'Antonianum si concluderà fra 7 giorni con l'ascolto della relazione del professor Gianfranco Genesini, già clinico medico di Firenze, sul tema della medicina personalizzata e medicina integrata. Grazie a Didaici Regia, a voi tutti per l'ascolto, da Mirko Cavallini, buon proseguimento. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.